Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. E vai, stiamo per dare il via all'ultimo weekend del soundcheck di Radio 24, ultimo weekend della stagione, e quindi sono felice di salutare tutti voi, di ritrovarvi collegati attraverso i vostri apparati radiofonici, sicuramente in macchina, no? Perché la radio, lo sappiamo, ormai l'abbiamo capito, che si ascolta in macchina o al massimo attraverso l'app di Radio 24, ma difficilmente si ascolta la radio in casa come si faceva una volta. Non esistono più le radio dentro. Non esistono più le radio. Ormai i ragazzi sono vittime degli smartphone e le mamme e le nonne sono ancora vittime della televisione. Però tanti usano lo streaming per ascoltarlo, ci sono tante app di radio anche è vero. Di livello internazionale. È vero, e noi stiamo andando bene come sempre. Quindi siamo pronti per dare il via al soundcheck di questa sera e vado a ringraziare, lo avrete già riconosciuto perché oramai in questa stagione in modo particolare è diventata una star multimediale, avendo partecipato anche a un programma televisivo guidato dal sottoscritto. E quindi di chi vi sto parlando? Del protagonista di questa stagione, Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Ti è piaciuta la presentazione? Sì, tantissimo. Bene, se tu hai meritato questa presentazione, non puoi immaginare la presentazione che invece farò a una delle mie donne preferite. Sentiamo, sentiamo. Devo dire una donna fondamentale per le mie ultime stagioni di attempato uomo di musica, una ragazza solare, piena di energia, una bravissima vocalist che ultimamente ha pubblicato anche un nuovo album tributo a Lucio Dalla insieme a Pippo Matino, ma l'abbiamo presentato la settimana scorsa. Già. Quindi questa sera invece ci lasceremo andare ai protagonisti di questa stagione, perché lo ripeto, oggi parte l'ultimo weekend, ovvero domani alle 19:15 daremo il via all'ultima puntata della stagione. Ma abbiamo tempo per salutarci e farci i ringraziamenti e i complimenti, e quindi non posso che salutare la meravigliosa Silvia Barba. Buonasera a tutti, ciao Gegè, mamma mia. È bello, eh? Meraviglioso. È vero. Come fai? A fare che? A fare queste presentazioni. Mi vengono così, naturali, ormai, vado in automatico. Grazie, Silvia. Non so se noi siamo all'altezza di ringraziarti per questa possibilità che ci hai dato. In modo particolare, Tromba non tanto, ma tu mi ispiri. Grazie. Okay? Mi ispiri e quindi proprio dal profondo del cuore mi vengono fuori queste parole. Grazie Gegè Telesforo, buonasera. Bene, buonasera a tutti, siamo pronti per dare il via alla puntata. Allora, che cosa abbiamo combinato? Quest'anno non siamo riusciti in qualche modo a organizzare il Soundcheck Music Award. Nelle passate stagioni che cosa avevamo fatto, Tromba? Avevamo selezionato quelli che erano secondo noi gli album più belli, dividendoli anche per categorie, oltre agli album anche le canzoni, quindi avevamo fatto una sorta di contest con gli ospiti che votavano e anche esatto, il pubblico poteva votare. E anche il pubblico a casa. Quest'anno invece per motivi proprio logistici siamo andati lunghi o no? Sì, non, o corti, non abbiamo dipende. Fatto in tempo, vista la quantità di musica che comunque è uscita fino all'ultimo. Esatto. Di musica, di proposte, però il lavoro l'abbiamo fatto. Allora, che cosa abbiamo fatto per selezionare i brani e gli artisti che hanno regalato il loro suono alla nostra trasmissione? Siamo andati a rivederci tutte le puntate messe in onda, o meglio, siamo andati a vedere tutte le scalette e abbiamo selezionato quelli che poi sono stati anche i più gettonati dai nostri radioascoltatori e quelli sui quali in qualche modo ci siamo soffermati un po' di più, raccontando le loro storie, ascoltando la loro musica. Sì, anche quelli appunto più richiesti, le domande che ci sono venute attraverso i social da parte dei radioascoltatori anche. anche questa, abbiamo considerato. E poi abbiamo fatto anche una considerazione, cioè nelle passate stagioni dicevi la musica l'avevamo suddivisa per categorie, selezionando quelli che ci sembravano i migliori, no? Quindi i solisti, gli artisti, il miglior album, però già avevamo capito che era inutile andare per generi, a parte il jazz, no? Sì, ormai che è una categoria a sé. Invece quest'anno ci siamo accorti che anche il jazz non è più una categoria. Eh sì, perché nel jazz vengono compresi anche tanti altri tipi di musica che di solito vengono considerati a parte, ma ormai fa tutto parte della musica in generale. Sì, e una categoria che avevamo scelto era anche quella indie, indipendenti, cioè degli artisti che in qualche modo avevamo scoperto attraverso internet. Quest'anno invece proprio attraverso internet ne abbiamo scoperta tanta di musica, e quindi alla fine, come diceva Miles Davis, esiste un solo genere, la musica buona. E noi abbiamo fatto una ricca selezione di quella che è la fotografia sonora di questo soundcheck di quest'anno, scegliendo noi, abbiamo tagliato la testa al toro, abbiamo deciso noi cosa riascoltare per il meglio di. Va bene, più che la testa al toro, direi la testa al topo, visto che ce ne sono molti, soprattutto nella capitale, che razzolano. E quindi da cosa partiamo? Non potevamo partire dal grandissimo e simpaticissimo Masego, che con Breast Tracks ha pubblicato questo bellissimo singolo che si chiama Melanin Man, e noi lo abbiamo davvero ascoltato tante volte e è un piacere di ascoltarlo ancora. Melanin Man. Sì, è vero, siamo impazziti per Melanin Man all'inizio di questa stagione, ma poi ancora una volta abbiamo colpito nel centro, perché abbiamo beccato un altro talento, quello di Masego. Quante cose sta facendo questo ragazzo? Eh sì, il talento è cristallino, si nota immediatamente dal primo ascolto, sta collaborando con tantissimi artisti e sta crescendo di giorno in giorno. Mi auguro che pubblichi un album al più presto. E un'altra scoperta importantissima l'abbiamo fatta proprio all'inizio della stagione, proprio era i primi di settembre, quindi appena siamo tornati in azione su Radio 24 abbiamo proposto anche l'arte e il talento di No Name, una scoperta di Chance the Rapper. Anche lei arriva da Chicago, e la cosa forte è che abbiamo presentato No Name anche al pubblico internazionale, perché per esempio avevo amici americani che non l'avevano ancora ascoltata. Adesso No Name sta facendo i concerti, sta spopolando, fa sold out ovunque, e io ci posso mettere la firma, mio caro Tromba, che nella passata edizione dei Grammy Award No Name non era presente, perché l'album è stato pubblicato poi per intero a settembre, e quindi sono convinto che nella prossima edizione dei Grammy Award No Name avrà una nomination almeno. Speriamo, perché se lo merita veramente. Anche a livello di produzione quest'album è quasi perfetto. Ma perché? Chi ha prodotto questo album? Camo B. Camo B, No Name al soundcheck con Yesterday. Soundcheck, il suono della musica. E beh, lo abbiamo chiamato in causa parlandovi di No Name, che è praticamente figlia adottiva di Chance the Rapper, ma è lui il campione dell'ultima edizione dei Grammy Award. Si è presentato ai Grammy Award con diverse nomination e soprattutto con un disco assolutamente indipendente, cosa che forse non era mai successa prima di quest'anno, no? Di solito si poteva accedere alle nomination dei Grammy Award con un album ufficiale proposto da una casa discografica. Invece Chance the Rapper ha fatto tutto da solo, coinvolgendo però le grandi star. Questa è la cosa forte. Sì, questa è la cosa su cui ha puntato, cioè non ha puntato sulla casa discografica, ma ha fatto tutto da solo, diventando poi anche amico e collaboratore. Ha collaborato anche in tanti altri progetti durante l'anno con grandissimi artisti. A proposito, però, visto che siamo sul genere, volevo raccontarti questa cosa che ho letto, questa notizia, che nel 2018 arriverà si farà un museo dell'hip hop a New York, ad Harlem, nella 125esima strada dovrebbe essere la sede. Ancora non si sa di preciso il punto esatto, però appunto aprirà questo museo, dove ci sarà anche un caffè, una parte espositiva e una parte dedicata alle esibizioni. Quindi immagino che ci faranno anche dei gran bei concerti, perché comunque New York viene considerata la patria vera e propria del rap. Ma anche pensa, che meraviglia. Beh, anche ci andremo sicuramente a vedere, assolutamente, no? Sì. Quando apre? A settembre? È nel 2018, manca ancora un anno e mezzo. Lo devono allestire, devono recuperare tutte le canotte, i bermudoni di Notorious B.I.G. I cappelli, no? Le collane, gli anelli. È vero? Sì, poi io spero assolutamente di riuscire ad andarci e a ascoltare magari anche dei bei concerti. Assolutamente sì, bene, questo è il soundcheck di Radio 24, siamo in chiusura di stagione, lo dicevamo, è l'ultimo weekend, domani ultima puntata per noi e quindi i saluti, i ringraziamenti ce li faremo domani. Silvia, tu ce la fai, mi hai detto che avevi un appuntamento, però ce la puoi fare, andiamo avanti finché poi quando devi scappare, scappi. Devo scappare. Però domani torni. Certamente. Va bene, cerchiamo. Vediamo che succede. Va dai. Bene, va bene. Perché stai lì a controllare il telefonino, ma chi ti deve chiamare? È un appuntamento. Lo so, era l'ultima puntata e quindi ho preso questo appuntamento. Ho sbagliato, giuro che non succederà mai. Ha preso più. Un appuntamento, era qualche Justin, qualche Miles, no. Johnson, come si abbiamo chiama? Già dato. Abbiamo già dato. Vedi che te le vai cercando poi. Lo so. Poi mi arrivano le minacce dalle tue sostenitrici. È colpa tua, vedi, ti lasci andare. Allora, da Chance the Rapper, va bene, abbiamo fatto Melanin Man con Masego, No Name, Chance the Rapper. È arrivato il turno di un altro giovane protagonista, sempre Chicago. Sì, sempre Chicago, che sembra essere la Anzi, patria. Lui ha utilizzato proprio come una targa il nome della città. Sì. BJ the Chicago Kid. Chicago Kid. Con Turning Me Up. Questo pezzo è splendido, ragazzi, mi fa impazzire. Tutto il disco è bellissimo. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, in questa prima parte del soundcheck vi abbiamo suonato i cavalli di battaglia del nostro programma, ma anche quelli che sono diventati in questo ultimo anno i protagonisti della scena black R&B e hip hop contemporanea negli Stati Uniti e nel mondo, perché anche un signore come Anderson .Paak, che fino a 2 anni fa non conosceva nessuno e che noi vi abbiamo proposto perché... attenti come siamo andati a rintracciare le sue produzioni, anche le sue collaborazioni con altri artisti, sempre sui siti di riferimento, quelli che noi frequentiamo proprio per tenerci aggiornati. E questo signore si chiama Anderson.Paak. Che cosa c'è? .Paak, come mai? Utilizza dei nomi e ha utilizzato nel corso della sua carriera tantissimi nomi alternativi, per esempio su Twitter Call Me Andy. Si fa chiamare. È un personaggio particolare, però devo dire è il personaggio del momento. Insieme a Chance the Rapper ha dominato i Grammy Award, pur non vincendo, perché comunque era nominato in una categoria, però davvero sta facendo concerti in tutta Europa, lo abbiamo visto live, Francesco lo ha visto anche live, infatti adesso mi voglio far fare la recensione proprio da Francesco del concerto di Anderson .Paak, che nell'ultimo anno si è anche tolto la soddisfazione di ampliare il raggio d'azione facendosi conoscere anche da un pubblico più pop, che è quello che poi segue anche le vicende di Bruno Mars, no? Perché apriva i concerti di Bruno Mars. Esatto, i concerti di Bruno Mars. Però poi ha fatto anche i concerti come solista e tra l'altro è arrivato in Italia per un'unica data a Verona. Sì, ed è andata subito sold out. Cioè tu hai preso il tuo trenino e sei andato a Verona subito. Assolutamente, subito, immediatamente. Sei andato a vedere Anderson .Paak. Che cosa è successo e cosa succede ai concerti di Anderson .Paak? Lui è praticamente una molla, non sta fermo un secondo. Ancora non riesco a capire come faccia a cantare così bene mentre suona la batteria, perché è veramente difficilissimo. È vero, perché lui è anche un bravissimo batterista hip hop e R&B. Sì, oltre a questo comunque lui subito... Ma poi ha anche un altro batterista o no? No, nella parte in cui lui non suona la batteria c'ha un DJ che fa la parte... Fammi visualizzare l'organico sul palco, tromba. Allora, che organico musicale porta Anderson .Paak? Cioè ci sono un chitarrista, un bassista, un DJ, un tastierista che usa anche il vocoder. Sono i Free Nationals, la band di Anderson .Paak, che sono veramente fortissimi. Tra l'altro dovrebbero pubblicare anche loro a breve un disco. Ho conosciuto anche il tastierista. Ho visto la fotografia. Che è enorme, veramente. tanto quanto enorme e bravo. Va bene, quindi lui è bravo, sa stare sulla scena, non si limita a suonare e a cantare, ma fa anche spettacolo. No, fa pure tipo le capriole, salti mortali, è veramente una botta di energia pazzesca. Anderson .Paak al soundcheck di Radio 24, qui lo abbiamo ascoltato con Schoolboy in Am I Wrong, dall'album di successo di Anderson .Paak, che speriamo di rivedere presto nel nostro paese. Eh beh, se continuerà così a fare tutti questi sold out anche in giro per il mondo, immagino che lo rivedremo. Allora, per chiudere questa prima parte del nostro soundcheck, perché vogliamo arrivare puntualissimi all'informazione di Radio 24, direi di tornare a gustare forse una delle mie canzoni preferite di questa stagione. Brano assolutamente solare, anzi, scusatemi, più che solare, lunare, perché il brano si intitola Why I Love the Moon, perché io amo la luna, e questi signori invece arrivano da Brooklyn, New York City, ladies and gentlemen, si chiamano Phony People, io li adoro, che band di amici e fratelli. Eh sì, anche se sembrano quasi più californiani come sound, perché sono molto psichedelici. Psichedelici e solari, Phony People al soundcheck di Radio 24, e poi arriva l'informazione e poi la seconda parte per noi piena di grandissima musica, quindi restate con noi. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, seconda parte del penultimo soundcheck della stagione. Domani ci saluteremo, sì, chiudiamo il Groovemaster Studio, perlomeno con la radio, perché poi io continuerò a frequentarlo, perché ci sono altre produzioni in corso che riguardano discografia, musica e altro, ma ve ne parleremo se avremo la possibilità, con Francesco Tromba e Silvia Barba. Mi sembrava la cosa più carina chiudere questo weekend con i miei compagni di avventure e di marachelle radiofonici, importantissimi per me, importantissimi per questo programma e importantissimi anche per la nostra comunicazione nel versante digitale, perché proprio per merito loro siamo arrivati un po' ovunque con le nostre scalette. È un'abitudine che abbiamo preso forse dalla prima edizione del nostro soundcheck, e altro lavoro sul lavoro che si fa nella comunicazione digitale, e quindi tutta la settimana siamo impegnati per realizzare il nostro weekend, non solo la selezione della musica, i tempi, avendo il palinsesto dalla radio, insomma c'è un bel lavoro da fare dietro a questo programmino. Sembra facile, ma invece non è niente, bisogna lavorare tutta la settimana. Non è per niente facile, sì, anche perché tocca stare attenti. Ecco, una cosa, noi siamo rispettosi del passato, viviamo il presente perché vogliamo vivere il futuro e essere all'altezza del futuro. È una formula matematica magica. È vero? Sì. Si potrebbe scrivere un trattato? Beh sì, almeno un saggio. Allora, avete comprato qualche libro per la prossima estate? Perché io sto per farvi il mio regalino. Davvero? Sì. Perché d'estate si legge, vero? Beh, è il momento ideale per leggere sulla spiaggia. Purtroppo ho notato che adesso sotto gli ombrelloni, io ci vado con mia figlia è la prima, noto che i ragazzi invece guardano il telefonino. Però se hanno il Kindle forse riescono a leggere meglio? No, ma quale Kindle? Stanno sul telefonino con Facebook, d'estate fanno fotografano selfie tutto. A go-go. Sì, io vedo mia figlia adesso impazzisce, si fa questi filmatini in diretta sui rap, sulle cose, no? Diventa protagonista anche lei delle sue avventure musicali. Però è molto brava, devo dire. Buon sangue non mente. È brava, va bene, ma mi piacerebbe vederla ogni tanto con qualche libro. Io le ho regalato un libro per quest'estate. Che libro le hai regalato? Beh, il vecchio che leggeva romanzi d'amore, uno dei miei libri preferiti di Luis Sepúlveda, che tra l'altro ho conosciuto quest'anno. Ma potete immaginare che gioia per me incontrare Luis Sepúlveda fuori dall'hotel dove alloggiavamo tutti e due in occasione del Salone del Libro di Torino. Ho visto la foto, bellissima. Hai visto? Ma io mi sono emozionato, come se avessi incontrato Quincy Jones. Immagino, comunque uno dei più grandi scrittori. Allora, vado a farvi il mio regalo. Posso? Vai. Allora, vorrei regalare a Silvia questo libricino che mi è stato gentilmente concesso proprio dal suo autore lì in occasione del Salone del Libro. Ecco. Anzi, la verità, me ne aveva spedito uno, me ne sono fatto dare un altro per te, che è praticamente, guarda, lo sto sbustando, A volte nevica in aprile, Prince è l'autore, è il mio amico Rudy Giorgio Panizzi, siamo diventati amici, non ti dico, guarda, Giorgio Panizzi nasce e vive a Torino, lavora, puoi immaginare dove lavora? No. Te lo dico io, presso la polizia scientifica in qualità di esperto nelle analisi dei dermatoglifi. Dermatoglifi. Grande appassionato di musica, dall'84 ha seguito Prince, del quale colleziona memorabilia. No, eccola, vabbè, qui. Ma questo è un regalone. E questo è un regalone. Tieni, che questo bello. Qua, Prince, A volte nevica in aprile. Grazie. E invece, al tromba. Tromba, tu lo sai che io ho questa fissazione da oltre 12 anni. Quale fissazione? Ecco, ti regalo. Guarda, ho paura. No, guarda, leggite, guarda il mio regalo. Te. Aspetta, guarda, un attimo. I cinque tibetani di Peter Kelder. Esatto, leggi. L'antico segreto della fonte della giovinezza. Esatto, quindi non è l'anduia, hai capito? Tu no. Pensavi che fosse l'anduia, no. No, però l'anduia aiuta. L'anduia aiuta, però sono i cinque tibetani, va bene, poi te ne farei una ragione. Che cosa sono i tibetani? Sono degli esercizi, devi fare tutti i giorni per tutta la vita. E sono cinque, quanto cinque durano? Per 21 ripetizioni. Ammazza. E ti mettono in movimento i chakra, perché io lo so, a te ti si stanno fermando, si sono fermati i chakra, agli altri li fai girare, ma in cui si stanno fermando. Va bene, andiamo alla musica. Si chiama Kato, che talento questo, ragazzi. Beh sì, fortissimo, polistrumentista, batterista, fra i più forti, cantante dell'ultimo momento, ma fa tutto. Questo brano lo ha realizzato completamente da solo, ma è stato pubblicato? Sì, credo che abbia pubblicato un disco, un EP, se non sbaglio. Ah beh, no, perché io ho rintracciato solo questo singolo qui. Io avevo letto che doveva uscire il disco intero. Allora andiamo a vedere In My Reach, Kato, Luis Kato, al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. La tromba di un altro protagonista di oggi, un personaggio. Tromba, come lo definisci? Personaggio, personaggione o idolo? Questo signore che si chiama Takuya Kuroda, che arriva dal Berklee College of Music, ma è giappo-americano. Eh sì, è un personaggione. Ecco, un personaggione, figurati se non era un personaggio. Però il disco nuovo è forte. Sì, molto bello. Tra l'altro invidio tantissimo il suo abbigliamento, perché ha dei vestiti molto belli. Molto colorati e molto interessanti. Silvia, questo invidia gli abiti di Takuya Kuroda. È stiloso, ha ragione. È Sai stiloso. Che con Tromba ci scambiamo delle volte delle fotografie degli artisti dicendo voglio questa camicia, lui si è vestito così. Mi manda gli screenshot guardando gli artisti che poi seguiamo. Non solo la musica, quindi. State impazzendo. Sì, infatti abbiamo bisogno di una pausa anche noi. Che questa stagione vi ha fatto male. No, avete bisogno di una pausa, va bene. Allora Tromba, che mi volevi dire? Ti volevo fare un regalo anch'io, ti volevo regalare un libro. Ecco, figurati, non potevi essere più originale? Visto che tu mi hai regalato un libro, io ti regalo un libro. Fammi vedere, che mi hai regalato? Guarda. Dai qua. Aspetta, eccolo. Ah, Pietro Leverato, della Sellerio, questa casa editrice fra le mie preferite, con la musica, note e storie per la vita quotidiana. Fantastico, Pietro Leverato, sai che me l'avevano detto di questo libro, proprio al Salone del Libro, sono passato dalla Sellerio per ringraziarli per il regalo che mi avevano fatto, che mi avevano mandato la versione italiana di Anthropology of Music di Alan P. Merriam, che loro avevano fatto la traduzione, però è fuori catalogo. Adesso, quindi mi hanno regalato l'unica copia che avevano in archivio. Io però, che sono malato, sono dipendente da Anthropology of Music, guardate qua che ho comprato per la prossima estate. The Anthropology of Music, l'originale, in lingua originale. Sì, in inglese, di Alan P. Merriam. Voglio vedere in inglese che se... Vuoi controllare anche se la traduzione se era giusta? No, la traduzione era impeccabile, le note. Però sai, in inglese è importante leggere anche questo, insomma un bel lavoretto da fare. Un bel lavoretto. Allora, musica, altri protagonisti di questa stagione, oltre a Takuya Kuroda, abbiamo parlato della famosa playlist di Eric Robertson con la partecipazione di Glenn Lewis. Anche questa è una bella produzione. Eh sì, gran bel disco prodotto da DJ Jazzy Jeff, dove appunto ha riunito in una specie di jam session tantissimi artisti a casa sua, nel suo studio casalingo, e hanno realizzato questo lavoro veramente bello. Glenn Lewis, protagonista con Eric Robertson di Superman, al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. In questo penultimo appuntamento stagionale del nostro Soundcheck, qui su Radio 24, vi stiamo presentando i protagonisti di questa stagione, e fra questi anche il formidabile chitarrista, cantante, bluesman John Mayer con Moving On and Getting Over, brano fantastico che troverete nell'ultimo album intitolato The Search for Everything. E noi abbiamo seguito in qualche modo il parto di questa pubblicazione, un parto perché un po' alla volta John Mayer dall'inizio dell'anno ci ha sfornato un brano alla volta, anzi quattro brani alla volta in varie mandate, anzi per essere preciso in varie ondate, perché ha fatto Wave 1, 2 and 3, quindi alla fine tre EP hanno completato il lavoro e messo su l'intera produzione. Eh sì, è un modo nuovo di tenere alta l'attenzione comunque sulla musica, è stato utilizzato anche da altri artisti dopo di lui, quindi è un modo diverso per cercare di attrarre i media. Sì, forse si è rifatto a quello che per primi hanno capito gli Snarky Puppy, band giovane della nuova generazione, ma con una mentalità non solo nella musica, ma una mentalità imprenditoriale contemporanea che li ha lanciati in tutto il mondo, e con loro anche tutti gli artisti che adesso sono legati alla Ground Up, che è la loro etichetta discografica. Beh, come se John Mayer però avesse avuto bisogno di tenere l'attenzione su di sé. Sui social ne combina di tutti i colori, ma sì, lo seguite? Vero, si lascia andare, non è neanche tanto così diplomatico il John non Mayer. È molto elegante, delle volte devo dire anche un po' troppo irruento, sì, nelle sue esternazioni. Cafoncello, un po' di campagna. Sì, se la sente, a Roma dicono in un modo, se la sente calda, nel sì. senso che comunica anche in modo anche... un po' così particolare, poi è bello da morire, cioè, quindi tu dici tutto... poco elegante. È poco elegante il ragazzo. È poco elegante. Devo capire se è un ma alle ragazze, piace molto. Un po' così rude. Po vedi, così. Vedi, già ti sei eccitata, solo al pensiero. A proposito, ho letto un gossip di recente, Katy Perry faceva la classifica dei suoi fidanzati di come erano a letto, e ovviamente il primo in classifica chi era? John Mayer. Ah, sì, Sì. Beh, poco elegante anche lei, scusa, che fa le classifiche, ma come ti permetti? È incredibile. Il secondo e il terzo la denuncia. Quanti erano in classifica? Ha fatto il podio, non ha fatto ha tutta fatto la il classifica. Podio, cioè i primi 20? No, i primi 3. Ai primi 3, si è limitata ai primi 3. Beh, troppo poco, Silvia. Beh, no, infatti se poteva la fai, fare falla di più. Bene. Falla bene, insomma, falla no. Dall'inizio, no? Va bene, allora, parlavamo delle produzioni degli Snarky Puppy, e qui ce n'è una molto interessante, forse una delle migliori della stagione. Anche Silvia Barba si è convinta, prima mi prendeva in giro per la mia passione smodata nei confronti di questa artista che è Becca Stevens, ma si è convinta un giorno dopo l'altro ascoltando questo album intitolato Regina, prodotto da Michael League, ma anche con la collaborazione di grandi artisti come il giovane talento inglese Jacob Collier, oppure un veterano come David Crosby. Album, e lo abbiamo raccontato più volte con Tromba, proprio nelle ultime due edizioni, perché la produzione è iniziata 2 anni fa. Eh sì, è iniziata subito dopo Perfect Animal, che era l'album precedente di Becca Stevens. Lei già aveva in progetto questo disco, aveva già gli arrangiamenti in parte iniziati, poi ha realizzato questo disco fantastico, molto bello. E lo ha realizzato, lo raccontiamo perché la cosa è interessante, utilizzando una piattaforma che si chiama Pledge Music, che è una specie di crowdfunding della, con un nuovo concept, una nuova generazione. Sì, è molto free, nel senso che ogni artista può decidere cosa offrire in cambio di una donazione. In questo caso, nel caso di Becca Stevens, c'erano anche delle offerte un po' particolari. Oltre, diciamo, agli house concert, potevi appunto invitare Becca Stevens a cena. Sì. Potevi andare a cena con Becca Stevens. Io mi sono perso questa, occasione. Però se aspetti un po', viene a Siena Jazz, quindi se ti tieni libero potresti andare a trovarla a Siena. Cercherò di essere presente a Siena Jazz. Comunque, oltre a questo, su Pledge Music c'era anche la possibilità di andare a giocare a Central Park a baseball con Michael League. Con Michael League. Quanto costava un'ora di baseball a Central Park con Michael League? $500, se non sbaglio. Non tantissimo, dai. Va bene, allora chi ha poi magari è scarso, però Michael League. Chi ha detto, chi ha parlato di Becca Stevens? Chi ha parlato di Becca Stevens? Tu. Io ho parlato di Becca Stevens. Allora, eccola qui, con Jacob Collier. Questa è la loro versione di As di Stevie Wonder, da questo album. Che dite di questa versione? Bellissima. No, c'è da impazzire. Troppo bravi. Soundcheck. Il suono della musica. Abbiamo dedicato al nuovissimo album dei Moonchild una puntata domenicale del nostro Soundcheck Radio 24, ma ci sembrava giusto tornare ad ascoltare qualcosa da questo album intitolato Voyager, con Andris Metson, Amber Navran e Max B.J. The Brick. Questo è il nome dei componenti dei Moonchild. Sì, band fantastica, trio fantastica. Meraviglioso. Finalmente avremo la possibilità di vederli dal vivo, non in Italia, ma stanno già facendo tanti concerti. Però magari non si sa mai, in autunno potrebbero anche arrivare in Italia. Speriamo. Speriamo assolutamente. Bene, Moonchild al Soundcheck a chiudere questo appuntamento di oggi. Domani ci saluteremo sul serio. Domani pronti quei fazzoletti? Con i Kleenex pronti all'occorrenza. Io ho chiesto a mia figlia, che ha finito la scuola ormai da qualche settimana, l'emozione che ha provato l'ultimo giorno di scuola. E mi ha detto: è meraviglioso. Io la mattina mi sveglio, mi ha detto papà, e penso di dover andare a scuola. Poi invece mi ricordo che sono in vacanza e torno a dormire, e dorme fino a mezzogiorno. Quella è la giusta emozione. Io invece, questa è la cosa, che chiudo la radio e continuerò a svegliarmi alle 5 del mattino già con un sacco di cose da risolvere. Prima di tutto i 5 tibetani. Quelli vanno fatti. Tromba, mi raccomando, quei tibetani, quelli vanno fatti tutti i giorni. Domani mattina iniziamo. Dai. Iniziamo. Intanto poi, appena finisce il programma, ti spiego come si fanno. Ok, dai, facciamo. Va bene, siamo ai saluti, ragazzi. Però dobbiamo ringraziarti, soprattutto per l'opportunità che ci hai dato in quest'anno. Senti, lo facciamo domani, però. Lo facciamo domani, va bene. Dai, facciamolo domani, sì. Però dai, ringraziarti per la possibilità che ci hai dato quest'anno di ascoltare. Ringrazio. Dei concerti importanti tramite l'UNICEF, con il tuo Sounds for Children. Grazie. Che ti ha tenuto molto impegnato, ma che ti ha dato anche tanta soddisfazione. Grazie. Allora, questo lo accetto. Poi sì, è vero, è stata una bella esperienza Sounds for Children. Stiamo continuando a lavorare con gli amici di UNICEF per rendere questo progetto sempre più operativo sul nostro territorio, ma anche all'estero. Quindi le informazioni su Sounds for Children le troverete comunque nel sito di riferimento di UNICEF Italia, unicef.it/soundsforchildren. E chiudiamo, vorrei chiudere in bellezza, Tromba, con qualcosa che ti riguarda. Che cosa? La sigla di Variazioni su tema, che poi è un brano che abbiamo tratto da Fans Low Ride. Noi ci siamo divertiti anche a fare TV quest'anno. Sì, insieme. Ci siamo divertiti tantissimo, e ringrazio soprattutto il pubblico di Rai 5, che ancora oggi ogni tanto mi arrivano delle mail, o comunque mi scrivono tramite Facebook, mi ringraziano, perché appunto dicono come siamo riusciti in così poco tempo, perché è un programma che dura 10 minuti, a ricreare l'atmosfera della vita del musicista. È vero, a raccontare delle storie, cosa che abbiamo fatto anche qui su Radio 24, ed è stato bello per un certo periodo che il soundcheck di Radio 24 e Variazioni su tema si supportavano a vicenda. Abbiamo utilizzato temi trattati in radio per realizzare puntate in televisione, ma anche il contrario abbiamo fatto. Cose che abbiamo proposto in TV poi le abbiamo riportate anche in radio. Eh sì, è stata una sinergia fantastica. Grazie a tutti, ci risentiamo quindi domani 19:15 su questi schermi qui su Radio 24 per l'ultima puntata di questa meravigliosa stagione di musica. Eccoli qui, Fans Low Ride, The Great City, brano dedicato al meraviglioso Clark Terry, brano sigla di Variazioni su tema. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie Giorgia Telesforo.